Ma secondo me le responsabilità sono preste dette nella misura in cui non c'è un accordo, e secondo me era evidente che c'erano una serie di veti incrociati che predisponevano male alla soluzione di un accordo politico, perché i punti, al di là della voglia di governare, di non tornare alle urne, erano veramente incompatibili, perché da una parte c'era la flat tax, dall'altra reddito di cittadinanza, ancorché la sopravvivenza politica a certe volte sia maggiore del buon senso, però direi che era un esempio faticoso. Quindi se si torna a votare penso non sia nulla di male, anche se è la prima volta, questo non cambia insomma niente. Tra l'altro anche in altri paesi, penso alla Spagna, insomma si è votato più di una volta perché non c'era una maggioranza, quindi anzi a noi serve sbloccare la situazione, ci sono i comuni che hanno bisogno dello sblocco di questa situazione, c'è l'Europa per le scadenze che abbiamo, quindi insomma auspico che nel più breve tempo possibile, effettivamente ormai essendo così lunghi, magari non a luglio, perché insomma ci sarebbe anche oggettivamente poca partecipazione elettorale, ma magari a settembre si possa tornare a votare. Il ruolo del Partito Democratico in particolare nel, diciamo, veto posto da Renzi in alleanza col Movimento 5 Stelle, lei come la pensa? Ma io dall'inizio dico che insomma, il Partito Democratico per suo vantaggio personale avrebbe dovuto invece appoggiare dall'esterno, quindi non vuol dire mettersi d'accordo per un programma, mettersi d'accordo per dei ministri, dei ruoli, ma da fuori spingere, dare il supporto per poter far governare il Movimento 5 Stelle. Questo sarebbe stato per il Partito Democratico un vantaggio, perché io sono convinto che insomma, i partiti populisti come il Movimento 5 Stelle alla prova dei fatti non saranno in grado, non sarebbero in grado di, come dire, mantenere le promesse fatte, di così mirabolanti promesse, e quindi questo avrebbe fatto sgonfiare anche questa bolla, tra virgolette, elettorale. Perché finché non governeranno potranno sempre dire che loro avrebbero fatto meglio. Il PD ha scelto di ritirarsi, di fare quello che da lontano dà dei giudizi, ma non penso che se ci fosse un'elezione imminente, come dire, prenderebbero di più, anzi, probabilmente prenderebbero di meno a favore di un ballottaggio ideale Movimento 5 Stelle Lega. Venendo invece al suo partito, Italia in Comune, nel weekend scorso dall'Emilia Romagna è cominciato una sorta di tour. Che differenza ha rispetto appunto agli altri partiti, alle formazioni che abbiamo già visto? Quali sono i punti di forza e la necessità di questa formazione? Ma che di fatto noi ci poniamo soprattutto non da un punto di vista ideologico, ma da un punto di vista, adesso dico, non dico pratico, ma noi abbiamo creato una carta dei valori, abbiamo detto chiaramente da che parte stiamo, quindi una differenza ad esempio del Movimento 5 Stelle che dicendo semplicemente non siamo né di destra né di sinistra non hanno mai detto poi per i grandi temi, pensando all'Europa dove un giorno sono d'accordo, un giorno no, dove l'immigrazione dove un giorno sono d'accordo, un giorno no, da che parte stanno. Abbiamo fatto una scelta partendo come dire, da questo nucleo fondatore in cui abbiamo dato delle linee guida su tanti punti, il programma è ancora da fare perché vogliamo prima di tutto aggregare, come dire, delle iscrizioni di sindaci, di cittadini, di professionisti per fare un programma tutti insieme, e quindi insomma vogliamo arrivare, è iniziato questo viaggio come abbiamo detto da Parma, saremo a Roma il 20 di maggio e vogliamo arrivare poi nell'autunno a fare un'assemblea nazionale dove, come dire, eleggeremo il coordinatore nazionale, il presidente, che adesso siamo, io sono il presidente, adesso Pascucci è il coordinatore, ma diciamo in forma transitoria per arrivare poi ad avere dei numeri per fare un'elezione vera e propria. Lei ha citato il tema dell'immigrazione e proprio gli enti locali in questi anni, diciamo così, forse hanno lamentato di più un modello di accoglienza gestito dalle prefetture che alcuni enti locali hanno vissuto come un'imposizione. Insomma, volevo chiedere la sua esperienza e se può essere migliorato il tema dell'accoglienza e come. Ma noi avevamo da subito, noi abbiamo un sistema SPRAR che ci ha visto vincere, come dire, come miglior progetto nel 2014, adesso allo SPRAR basta aderire, non serve concorrere per avere le risorse, quindi il processo per quanto riguarda l'integrazione, tante buone pratiche, avrete visto non so nelle settimane scorse che abbiamo integrato il servizio di vigilanza dell'attraversamento dei bambini davanti alle scuole, abbiamo integrato, come dire, la mancanza di nonni vigili che insomma storicamente hanno fatto questa attività in tante città, con anche dei richiedenti asilo per sgravare la polizia municipale. Quindi da noi gli esempi di attività di integrazione, di non far stare queste persone con le mani in mano si sprecano, è evidente che invece lo Stato per troppi mesi, col ministro soprattutto Alfano, perché penso che Minniti abbia fatto un buon lavoro in questo senso, nelle modalità di riduzione e di dare più potere per la gestione dei flussi, insomma il governo sia stato latitante per troppi anni e anche questo sia stato pagato dal Partito Democratico. I comuni da sempre devono poi risolvere veramente le situazioni, hanno a che fare in modo diretto con i cittadini che lamentano questo tipo di situazioni, quindi hanno la responsabilità in primis di fare dei progetti, dal mio punto di vista, di integrazione e di inclusione, più che frasi roboanti modello, come dire, Lega, per cercare solo di puntare il dito sul problema senza neanche mai fare una proposta di soluzione.